30 giorni percorse la schiera paziente del re e camminò lunghi spazi, supina all'andare fatale, fino a che desolata una vasta montagna le accolse, alta e sola su peti di rupi, e su quelle sue inospiti vette fumo alcuno non era che al cielo salisse da vita riposta domani, traccia alcuna non era di belva sull'integra zolla. Solo il monte, ma verde di lume di gemma l'alpestre sua cima, e sulla cima una casa era, accesa di rosso fulgente rubino, chiara e bianca di fiaccole, in terzo cristallo ridenti, e nel mezzo alla corte era un'acqua, ma triste per l'onda s'ammastra. Pur della rutila gemma era rossa la casa, ed il monte era rosso, e la valle, e il tremolar della fonte, e di raggi lucenti, e le ombre. E lassù, presso l'acqua, che l'onda leggera la moviva, due troni grandi, e l'uno e l'altro d'oro, ma l'uno fulgido e vuoto, ed è bianco di canfora l'altro. L'uno è vuoto, e si gloria di coltri preziose quell'altro, di broccati, di porpora, ed un morto. Un uomo morto gli siede e sta immobile in mezzo alla casa lucente. Un uomo salvo la testa ferina, infelice all'aspetto, sul trono tutto d'oro. V'è chi muove da terre lontane e a quel morto si reca con doni, ma sol che varchi la rossa sua porta, un tremore lo coglie e vola via come un battito dalla funesta la vita. Che malvagio! Il tutto franto nel cuore! Ad Alessandro così salì un grido dall'onda salmastra. Oh, schiavo del sogno! La terrore in follia che ti preme ai confini del mondo, o curioso di cose non viste, è ormai tempo. Si piace! C'è del morso che pungono e punge per mai breve vita. Tira il mio coraggio e l'ansia sopita. Rinuncia a questo trono! Ristette muto Alessandro. Ed un grande sgomento lo prese. Poi si volse e veloce fuggì dalla casa infocata, quale torbida nube che il vento irrequieto sospinga, e le labbra di cuore dispose a invocare l'Eterno, però più che a preghiera tremava lui il labbro di pianto. E così l'aspre vie del deserto dolente riprese, e pensava di sé tra la sorta sua guida e le schiere silenti, finché a un tratto lo scosse e rallegrò sentire voce d'uomo. Era il luogo cortese, una terra di molto diletto, una città che s'apriva al sorriso di vaghi giardini, e a gente in festa per lui, che inatteso era giunto, a gente che su tappeti di gemme gridava acclamandolo al passo: benvenuto, o re Alessandro! Non furono mai qui tra noi né soldati né saggi tiranni, non mai guida conobbe la nostra città, non conobbe mai guardia, ma poiché a noi felici venisti da terre lontane, oh signore, sii felice anche tu come noi, re Alessandro. Si levò la fatica del re, si distolse la pena. Qual meraviglia tra voi che corriamo a saziarne la mente? Signore invitto, risposero, padre dalato consiglio, è in questi luoghi portento, qual mai non fu visto al mondo, mai ne udì l'alterigia dei re, mai ne seppe umiltà di mendico. Nostro portento è un albero fatato, che nacque dal groviglio di due troni. Molti rami a quell'albero, e fitto è di foglie, e d'aromi, e di colori soavi dolcissimo, e grato all'aspetto. Ma sua magia non è questa, è magia che conosca parola. Quando cala la notte, e s'addensano brune le ombre, parla il tronco che femmina. E all'alba che casta si imbianca, parla il tronco che maschio, con voce più chiara d'aurora. E il re, che alla Grecia sua bella vaghezza d'ignoto rapiva, veloce corse alle fronde, curioso di nuova Maria, ma prima chiese ai felici, di là, di quell'albero santo, qual v'è magica cosa che ancora mi chiami e m'attenda. Oh Signore, di là di quell'albero è il nulla. Non è luogo ove volgere il passo, non è dove figger la mente. Anche il tuo desiderio, o monarca, ai focosi disegni, di là dell'albero è inerte. Così dissero, e mosse a quell'albero strano, e dal suolo egli vide di verde fumosi pelli di belva su terra che ardente li bolle, perché solo di carne felina si nutre chi adora quell'albero antico. Poi, come il giorno fu a mezzo, parlarono maschi e le fronde, e cupa voce percosse l'orecchio smarrito del re. Che parla, dimmi, la pianta? Fu chiesto alla guida fedele. Che parla, dimmi, che il sangue si è tutto in cuore raccolto? O perché vai solcando, rispose, i perduti orizzonti del mondo? O perché l'ampia terra cammini volgendo le terre alla sorte che te è patria sì bella? Due volte sette sono gli anni che a te, temerario, regnare è concesso. L'inesorabile giorno s'appressa e ogni cosa diletta più caramente ti strappa e il tuo trono di gloria si svuota. Lacrime rosse piange re Alessandro all'udir quella voce, ed appena di lui la buona guida, pur dentro l'anima triste, il segreto feroce racchiude e attende buia la notte, pietoso all'affanno regale. E fu la notte, e parlarono dolci le foglie, con voce di donna sommessa. Oh, perché l'ampia terra era tristi, con suono crudele ed armati, perché t'affliggi a percorrere i vasti sentieri del mondo, e altrui rechi danno e offesa, voglioso di barbarenti, non allungo te più questo mondo crociato di mora, e sarà bello per te se a partirtene l'atto d'affetti, prima che della luce del giorno sia spento ai tuoi occhi l'amore. O guida mia cortese d'avveduta, chiedi presto la Grecia, mia madre, rivedrò. Prendi il carico e parti, gli rispose quella voce sommessa di femmina fronda notturna. Tu non rivedrai né la madre, né a te consuete sembianze. Tu non rivedrai le fanciulle di Grecia, alle vaghe e pudiche fattezze. La morte verrà e avrà volto straniero. È il tuo trono che è stanco. Come trafitto di spada ritorna Alessandro dall'albero a valle, e vede gente festante che a rendergli amore s'affolla e l'acclama, e a lui offre gli omaggi che ad essi convengono e ai forti. Una corazza gli donano, tersa qual onda l'azzurro ruscello, possente sì che diresti è una spoglia d'orrendo elefante. Animali gli porgono strani, che nutrono solo le plaghe d'Oriente, e avorio e maglie, drappi e uova d'oro. O quanto mesto torna re Alessandro dai confini del mondo. Re Alessandro, guarda i doni, guarda i bei doni.